To może mamy do wypiecenia? Może. Dajmy za to ciekawa kupia. Tak, a ona kupia. Non so, adesso non è da. Ovo je moje. Da. That's what I'm going to do.